una buona sera da Max Macchia, che vi parla da, chiaramente da Città del Capo, ex forse Radio Metropolitana. Poi dopo un po' di tempo, come dire, mi è rimasto un po' addosso questo Radio Metropolitana, forse perché mi piacciono i luoghi urbani, particolarmente urbani, e in effetti questa sera 451 frammenti sonori in mia compagnia, appunto, di Max Macchia. Nel frattempo saluto Eliseo Scarpa e gli facciamo anche, come dire, gli auguri di buon anno, il suo compleanno, insomma. Anche lui, come dire, cresce e come cresce, tra l'altro. E questa sera, appunto, 451 frammenti sonori si occuperà di urbanità, ma forse sono delle urbanità molto disciolte perché il liquido, la liquidità, per meglio dire, sarà un po' la tematica di questa sera. Liquid Days abbiamo chiamato 451 appunto odierno. Liquid Days come il disco che aprirà questa sera 451, tra l'altro, di Philip Glass. Liquidità come la liquidità, insomma, famosa oramai da parte del, resa famosa da parte del sociologo Bauman, del pensatore che ha reso appunto in maniera anche chiara, chiarificatrice, quello che intendeva con liquidità, quindi questo passaggio, questo movimento continuo, però senza traumi di passaggio, ma attraverso appunto quello che è liquido, e quindi lo scorrere, il fluire anche delle cose in generale. Questa sera chiaramente le cose sono cose musicali che partendo magari da quello che ancora invece forse non poteva anche non considerarsi liquido, ovvero cose più aeroformi, come quella del minimalismo, ad esempio di Glass degli inizi, che però appunto negli anni Ottanta, e guarda caso proprio nella compiutezza del postmoderno, compiutezza che poi, insomma, quanto a dire oggi si può anche arrivare a pensare terminato quella fase storica, forse ancora qualche attitudine rimane, ma anche questa sera appunto attraverso questa liquidità andremo quasi appunto a ritrovarci sulle sponde o sulle onde dell'odernità, della quotidianità musicale, dell'attualità, insomma. E quindi anche in questo senso, insomma, probabilmente si arriverà a capire, a fluire un'onda che c'è stata e che probabilmente, insomma, è finita, probabilmente già parte come risacca di qualche cosa. Quando si parla di postmoderno, poi è già quel post che ci rimanda a questo, appunto, questa risacca, questo non più fluire ma rifluire, che comunque è sempre un movimento comunque liquido. E in questo senso Liquid Days di Glass, come altre faccende che tratteremo questa sera, spiega bene quello che è la liquidità, cioè quella forma aerea di cui parlavamo, accennavo prima, insomma, rispetto al minimalismo, seppur una forma aerea decisamente algoritmica, quella del Glass degli anni 70, anche con quelle voglie poi di spingere anche verso quello che poi in maniera così piuttosto forzosa e forzata sarà definito massimalismo alla fine degli anni 70, che poi, insomma, per tanti versi darà anche molto spazio ideativo anche a certa wave. Non a caso, insomma, Glass alla fine degli anni 70 lavora anche in quell'ambito, tra produzioni miste dentro comunque quell'area lì, e poi una sorta appunto di riflusso che per certi aspetti ha anche dato cose notevoli a livello musicale. C'è il Glasswork, quindi quasi un lambire una strada tra una new age cerebrale e un incrocio con un ambient così, sempre aereforme, forse in questo senso, insomma, ancora memore di quello che fu, insomma, la grande stagione minimalista anche sua. Poi un Glass che si dà molto alle colonne sonore e veramente la sostanza musicale poi si disaggrega a livello molecolare di Glass e diventa veramente un fluire liquido dentro appunto questi anni 80, che per tanti versi insomma sono stati liquidi, nel senso poco traumatici, o se i traumi bisogna veramente intravederli dentro quel fluire postumi, quindi ora li possiamo magari vedere, quel defluire magari o rifluire, insomma, che furono quella stagione, non soltanto a livello musicale ma anche storico e politico. Liquid Days dentro quindi il pop, dentro un minimalismo oramai liquidato, si potrebbe anche dire liquefatto, e Lightning forse portava anche questa esperienza di Glass a un piccolo gioiello di minimal pop, techno pop, consideriamolo tale, appunto, con delle differenze che veramente vanno così a fluire dentro l'indifferenziato, ma non per questo non spersonalizzato, anzi, come a dire, forse uno dei momenti insomma ancora interessanti, seppur in chiave pop, appunto, del nostro Filippo Vetro. Sleepless helplessness. That's just begun, and a windy, crazy running through the nights and through the days, and a crackling of the time burned away. Ebbene, quindi ascoltato ancora un Glass che aveva qualcosa, insomma, cioè non proprio di nuovo, comunque di interessante, perlomeno per quanto riguarda questa sera e per quanto riguarda, insomma, in una chiave postmoderna, quello che poteva essere considerato uno strano approccio tra pop e minimalismo. D'altronde sono Liquid Days di metà degli anni Ottanta, e prevedeva proprio questa liquidità tra pop e musica ripetitiva, quello che poi, insomma, Glass aveva fatto in maniera egregia negli anni 70, appunto strettamente anche dentro un discorso matematico insieme a Reich, rispetto, insomma, ai due grandi californiani, Terry Reel e invece la Monte Young, che facevano, insomma, un discorso molto più sul fluire, quello che poi fu, insomma, il grande sogno delle musiche eterne. Glass invece sicuramente molto più urbano in questo senso, seppur decisamente anche lui utopistico come suono, ma un'utopia, insomma, che partiva da sicuramente la città. Invece, per quanto riguarda riguarda i californiani Riley e Young, forse c'era proprio lì già un'esternità che veniva appunto portata poi verso veramente universi differenti, paralleli, se non proprio lontanissimi. E Glass, appunto, forse tenendo anche quell'urbanità e anche in questo senso Reich sarà un po' parallelo al discorso di Glass, per tanti versi insomma si assomiglieranno anche i percorsi musicali dei due ex forse minimalisti, bene considerarli tali forse, e con opere che diventavano sempre più meno eloquenti, oppure percorsi che andavano a fluire dentro quel pop che Song for Liquid Days portava, insomma anche un'accezione piuttosto interessante, anche piuttosto intelligente, e per Glass insomma soprattutto di quegli anni come il termine ha senso, insomma, visto che è sempre stato decisamente matematico come discorso quello portato avanti musicalmente dall'americano, e Lightning prevedeva le vocalità pop di Janice Perdorvins, però anche un John Gibson, quindi un personaggio insomma legato al suo grande, alla sua grande stagione minimalista, e autori anche veramente strani che potremmo considerarli così superficialmente strani, ma proprio se seguiamo insomma questo fluire liquido, David Byrne per quel discorso che facevo sulla Wave, Susan Vega per quel discorso sul pop, Paul Simon per quel linguaggio comunque soft pop rock, e con quelle insomma rimaneggiamenti anche vagamente folk. Sono personaggi che stanno dentro e che scrivono insieme a Glass proprio questo Song from Liquid Days, e di conseguenza insomma la liquefazione chiamiamola così, insomma, anche se il termine ci porta insomma magari a pensare a qualcos'altro, comunque la liquidità, ecco, che magari già porta a pensare in maniera più appropriata la puntata di questa sera. Onda su onda ci porta alla seconda onda, l'onda delle sirene, e onde che sono sette per quanto riguarda Susan Gianni che per molti versi si avvicina a Glass, soprattutto il Glass degli anni 80, quei primissimi anni 80, tipo Glasswork che citavamo prima, un pezzo come Facade molto vicino a una New Age finalmente intelligente, e un ambient appunto anche rinverdita che trovate insomma in quel disco, in particolar modo in quel pezzo Facade. Appunto Susan Gianni parte da quei laboratori che invece erano molto distanti da Glass, che invece è più legato insomma a performance anche di impatto molto molto duro, anche se è un po' sì, fa un po' specie insomma a definirlo così ora, insomma, visto che è diventato musicista star quasi Glass, legato al cinema, insomma, comunque le performance sempre piuttosto plateali, e però insomma quello sicuramente degli anni 70, visto che è partito anche come tassista e poi si dilettava anche a far musica, seppure insomma è poi riuscito a entrare anche lui dentro i laboratori, ma Susan Gianni di fatto insomma giovanissima partiva da quei grandi laboratori americani di musica elettronica, si appassiona a questo, si appassiona soprattutto a quello che saranno gli oscillatori e diventati poi synth e mondo di Susan Gianni già alla fine degli anni 70, primi anni 80, viene disegnato o viene, anzi per meglio dire, proprio tuffato dentro queste onde. Seventh Waves appunto è il disco da cui andiamo a trarre la seconda onda appunto dedicata al canto delle sirene. E chissà se magari qualcheduno, e sicuramente insomma sarà così, inizierà a pensarla insomma in termini anche ipnagogici, come onda insomma che ha portato poi ai suoni ipnagogici che tanto stanno attraversando questo oggi, o tanto insomma come dire ci accompagnano appunto, ci fanno fluire in termini anche onirici dentro le nuove musicalità appunto degli anni 10. Susan Gianni insomma per molti aspetti, da come sentirete, è sicuramente magistrale. Seventh Waves, in particolar modo il canto delle sirene, quindi Second Wave. Thank you. Ebbene, da Susan, anzi Chani, con le sue veramente nuotate sonore e tuffi splendidi dentro le materie elettroniche che all'epoca sicuramente stemperavano quel linguaggio sperimentale invece che aveva appunto sperimentato negli anni 70, quello laboratoriale, e che portò insomma Susan Chani anche proprio definire certi modi di suonare l'elettronica, anche la computer music, più su questi versanti insomma ambientali se non addirittura naturalistici. Poi il primo disco insomma che tra virgolette insomma la rese famosa, questo Seventh Waves dell'82, che sicuramente insomma è accostabile a un certo glass, come dicevamo prima, magari un pizzichino più elettronico per quanto riguarda Susan Chani, anche forse più così delicato per molti aspetti, quello insomma di Glasswork. E poi dopo abbiamo ascoltato Julia Holter, invece giovanissima artista decisamente interessante, che viene fuori da poco dal terra losangelina, terra insomma legata per tanti aspetti insomma a visioni dilatate, se non proprio la terra delle psichedelie, la città delle psichedelie, perché quella è San Francisco, però anche Los Angeles insomma si è spesso dilettata su sonorità dilatate, a volte anche soffici, molto della West Coast esce proprio da lì, quel suono anche poppizzato della West Coast, non soltanto quello psichedelico. E beh, di certo Julia Holter ha quella così quel fluire che proviene da una grande folk singer visionaria come Linda Perrax. Veramente le corde, il cuore vanno molto a in riferimento appunto alla grandissima e purtroppo anche misconosciuta cantautrice, appunto psico-cantautrice come Linda Perrax, e per certi versi le musicalità, magari la testa va a certo suono che abbiamo ascoltato appunto soprattutto in Susan Chani, quindi Chani anzi per meglio dire, e che appunto è questo lasciarsi cullare anche da queste onde sonore. L'elettronica è molto tenue, quasi utilizzata come se fosse uno strumento acustico, d'altronde poi spesso c'è anche proprio la commistione dentro Susan Chani, anzi dentro Julia Holter, di acustico ed elettronico utilizzato veramente in maniera liquida, cioè nel senso senza traumi di sorta o senza voler appunto differenziare le due cose, in questo senso veramente seriamente folktronica la cosa, un termine insomma anche piuttosto insomma infelice di questi anni, che si usa di tanto in tanto, ma qua forse veramente la sintesi è seriamente interessante, con quella anche spruzzatina molto così che potrebbe rendere appetibile il disco Ecstasis di Julia Holter anche al pubblico più vasto, che è questo senso pop, questo anche cantato molto comunicativo, che probabilmente porterà anche a parlare della Julia Holter in termini insomma non soltanto ecco di ricerca e di così viaggi dentro liquidità experimental pop, chiamiamole così, con tanto di riferimento folk, ma forse anche proprio più squisitamente pop per quello che può significare ora il pop, quello ecco veramente liquefatto, disciolto in questi ultimi anni. Che si parli di pop con Andrew Poppy e anche il nome, insomma, è un gioco che insomma prevedeva tanto anche di Zhang Tuntum. Non ci stiamo riferendo direttamente all'ideatore del futurismo italiano Filippo Tommasi Marinetti, ma all'etichetta discografica degli anni Ottanta, molto molto liquida sul serio, quando appunto non voleva invece essere situazionista e quindi post-punk, e quindi a effetto shock come in certe uscite. Ma con Andrew Pop invece si va veramente verso una liquidità pop decisamente interessante, che lo porta tanto ad avvicinarsi a Philip Glass di Glasswork o di Liquid Days, o a Moroder di Metropolis, o un suo divagare dentro un'orchestralità che ad esempio anche in una chiave piuttosto liquida sarà da lui organizzata dentro il primo disco degli Psyche TV, si occupa proprio degli archi e delle parti orchestrali. Ci andiamo a prendere da un suo lavoro solista, Impossible Net, ovvero una sorta fatemi passare insomma il termine, appunto molto appropriato agli anni Ottanta, una sorta di composizione classica minimalista dentro classica minimalista per quello che poteva essere appunto dentro la postmodernità degli anni Ottanta, dentro una ritmicità techno pop. Ci andiamo a sentire Andrew Poppy dal suo Impossible Net, e probabilmente aveva proprio anche ragione a chiamarlo Impossible Net, proprio per una certa impossibilità a livello sonoro, che comunque non rende inascoltabile la cosa, anzi la rende piuttosto pop.